America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The first funerals are being held today for two of the 20 children gunned down in Friday's mass shooting at a Connecticut primary school. È stata una giornata grigia, umida, quella di ieri, una giornata davvero ormai già invernale, ed è cominciato a Newtown e poi poco vicino in Connecticut il triste corteo dei funerali dei bambini uccisi a Sandy Hook, in quella che è diventata una delle più gravi stragi commesse da un singolo individuo nella storia americana. Funerali che continueranno oggi, continueranno nei prossimi giorni, quasi fino al fine settimana natalizio, e dunque un Natale triste quello che ci prepariamo a celebrare. Ieri l'estremo addio straziante, devo dire, ma mi ha commosso soltanto vedere la madre di uno dei bambini uccisi, la madre di Noah Penzer, un bambino di 6 anni, occhi azzurri, grande cuore. Pensate che al funerale c'era anche la sua sorellina gemella e lei si è salvata perché era in un'altra classe. Dunque vedere questa madre giovane con lo sguardo totalmente smarrito che avanzava in questa pioggerella per accompagnare il figlio alla tomba, beh, devo dire, è un'immagine che da sola spezza il cuore e ci deve far molto riflettere. L'altro bambino che è stato sepolto ieri è stato Jack Pinto, anche lui 6 anni, era compagno di classe di Noah, erano tutti e due in prima elementare. Jack era un tifoso dei Giants, aveva un idolo, Victor Cruz, che era il receiver dei Giants. L'atleta commosso, l'abbiamo visto in televisione, aveva le lacrime che gli cadevano quando ha saputo di questa sua passione. Ha subito mandato alla famiglia di Jack la sua maglietta firmata. I genitori hanno voluto che questa maglietta andasse con lui. Insomma, un'atmosfera di grande tristezza. We're going to do everything that it takes. Ecco il capitano Vance e la polizia di Newtown ha cercato di dare dei dettagli, ma dettagli non ce ne sono, ce ne sono pochi. In realtà ieri ha raccontato di questo altro gesto folle, di questo ragazzo a Los Angeles che ha detto che anche lui avrebbe compiuto un'impresa di questo genere, ha diffuso su internet delle minacce, è stato prontamente arrestato, ma la cosa che ha spaventato è che questo ragazzo aveva in casa, i genitori avevano in casa 9 armi da fuoco. Quindi ecco che insomma cominciamo davvero a renderci conto che qui la situazione rischia di diventare davvero preoccupante. Il paese è ancora sotto shock perché non ha capito qual è il movente, non c'è una spiegazione del perché questo giovane, questo Adam Lanza, abbia fatto quello che ha fatto. Sappiamo però che ha preparato con grande cura il suo piano, e la polizia di Newtown, appunto Vance, ha confermato che non vi era alcun diretto collegamento tra lui e la scuola. Ci ha detto ieri che è stato trovato un computer in questa bellissima casa, una bellissima casa bianca dove abitava con la madre che ha ucciso, come sappiamo, una di queste case con tapparelle verdi, una casa coloniale, un prato immenso davanti, un bosco dietro. Questo computer, ci ha detto Vance, è stato distrutto. E perché? Forse custodisce un qualche segreto. E sempre il capitano della polizia ieri ci ha detto che c'è una squadra specializzata in criminalità e computer che sta cercando di ricostruire, di recuperare tutto il materiale possibile di nuovo per cercare di capire. Ecco, devo dire che questa mancanza di spiegazione, di una ragione che possa dare un contesto logico, l'ha fatto per questa ragione. Se si fosse evitato quello forse non sarebbe successo. Dunque l'idea di essere più rassicurati per il futuro, questa mancanza tiene l'America in uno stato di angoscia. Non si capisce perché, e dunque non si capisce che cosa si possa fare per evitare che il prossimo squilibrato introverso al limite della patologia, ma geniale come Adam, possa compiere un gesto simile. Il dibattito ormai è aperto in molte direzioni, si sono mobilitati psicologi, sociologi per cercare di dare la risposta che oggi manca e che, vi dicevo, tiene il paese sospeso nell'ansia della vulnerabilità. Ecco, uno di questi è Randall Collins, lo avete sentito in un piccolo dibattito che hanno fatto vedere in televisione. Un grande sociologo della Penn University ha cercato di esplorare in un lungo saggio la microsociologia della violenza che porta alla preparazione di una strage. Ha trovato dei punti comuni, pensate, c'è una preparazione meticolosa sempre, sia che fosse ad Aurora, sia che fosse a Virginia Tech, e poi c'è la motivazione, appunto la motivazione che manca. E secondo Randall Collins, la motivazione in genere, di nuovo denominatore comune, è legata spesso alla percezione da parte di chi ha compiuto il gesto folle di essere stato umiliato, di aver subito a un certo punto una qualche umiliazione, e con questo suo gesto di omicidio di massa l'assassino non è che voglia punire la vittima specifica, però vuole colpire l'istituzione, la società, addirittura il paese. Direi che nel caso di Newtown Adam ci è riuscito. You know, just common sense, it's time to move beyond rhetoric. We need to sit down, have a common sense discussion and move in a reasonable way. Ecco, devo dire che questa sensazione di vuoto, di paura, di angoscia che pervade il paese ha avuto già un forte impatto politico. Vi ho fatto ascoltare un senatore della Virginia, Joe Manchin, che però è a favore degli armamenti, è stato schierato sempre con la National Rifle Association, ha cercato sempre di proteggere il diritto dei portatori d'armi. Ebbene, ieri è intervenuto dicendo che il momento è arrivato per cambiare. Ha raccontato di una battuta di caccia che aveva fatto pochi giorni prima, una battuta di caccia al cervo. Dice: ma siamo andati in famiglia a sparare ma abbiamo sparato 1, 2, 3, 4 colpi, non di più. È assurdo che si consenta alle persone di avere centinaia di munizioni. Il momento è giunto per cambiare, chiude Manchin. Ecco, è una svolta, perché Manchin, democratico, era sempre stato schierato con la destra, in questo era sempre stato schierato con i portatori d'armi, e questo dà un'idea di quanto diffuso fosse il sentimento. Ci sono, pensate, 44 milioni di americani che hanno armi, ci sono 190 milioni di armi da fuoco su una popolazione di 310 milioni di persone, 44 milioni di americani che hanno le armi, e quindi uno può capire come mai Joe Manchin, un democratico, fosse schierato con i portatori d'armi. Lui era lui stesso un cacciatore, voleva proteggere il suo diritto. La cosa, lui ha detto, è cambiata, lo hanno detto altri, lo ha detto persino in qualche modo il senatore repubblicano Mitch McConnell, che è il capo della minoranza repubblicana al Senato. Barack Obama, ieri lo abbiamo sentito, ha detto: le cose dovranno cambiare, speriamo che cambino. Però c'è un problema di fondo, ed è legato ai numeri che vi davo prima, perché dei 44 milioni di americani che hanno armi di vario genere, 190 milioni di armi, il 99,97% non uccide. Come dire, con controlli più rigorosi l'omicida di massa purtroppo sarà sempre in agguato. Ecco, in questo cambiamento che vediamo nella politica per il porto d'armi, devo dire che si è trovato anche un momento di pausa nel muro contro muro, perché davanti a questa tragedia, anche sul fronte del fiscal cliff, secondo me le cose si muoveranno. Secondo me è arrivato il momento di dire: ragazzi, qui dobbiamo dimostrare che le cose si fanno, mettiamo da parte le ostilità e davanti a una tragedia di questo genere occupiamoci del paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Non abbiamo ancora cominciato la serie di canzoni natalizie che amo fare quando ci avviciniamo appunto al Natale. Cominciamo oggi, perché siamo esattamente a una settimana da Natale, dunque cominciamo con alcune canzoni natalizie. Cominciamo con Silver Bells. Every street corner you hear, you can hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.